Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Cosa significa entrare nella leggenda? Beh, significa diventare parte delle vite di ognuno di noi, riconosciuti in maniera universale, rappresentare qualcosa nella costruzione della storia dell'umanità e della sua iconografia. Bene, oggi raccontiamo la vita di un uomo che è entrato nella leggenda non una, ma due volte in due campi completamente diversi, perché è stato un grandissimo nuotatore, uno straordinario campione, forse il più grande nuotatore di tutti i tempi, e poi è stato un grande attore di Hollywood che ha interpretato un personaggio che anche ai giorni nostri viene comunque identificato con lui, malgrado tutti i film che sono stati fatti dopo. La nostra puntata oggi è dedicata a un uomo che è stato intanto considerato per moltissimi anni la personificazione della bellezza maschile più naturale, quella selvaggia, ma anche che incarnava l'immagine della salute, della potenza fisica, della capacità di sopravvivere alle difficoltà più inaudite a cui la vita ci sottopone, insomma un simbolo di forza fisica e mentale. E il nostro protagonista di oggi è lui, Johnny Weissmuller, pluricampione olimpico di nuoto che ha vinto 5 medaglie d'oro in 2 olimpiadi, che ha inventato uno stile tutto suo e che è stato il primo uomo a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero, uno che si è ritirato imbattuto. E poi, finita quella che già di per sé poteva essere un'occasione per consegnarsi alla leggenda e vivere tutta la vita di ricordi, lui invece diventa un divo del cinema, interpreta una delle figure più amate dai grandi e dai bambini di tutti i tempi, Tarzan, l'uomo scimmia, cresciuto nella giungla, temuto dagli animali più feroci. E forse i più giovani avranno anche in mente altri che hanno interpretato Tarzan, magari Christopher Lambert, e poi nel 2006 è uscito un altro film, e poi ne sono usciti di tutti i tipi, ma il primo vero e unico Tarzan, anche per quelli della mia generazione che non l'hanno visto all'opera in quel momento, ma il primo vero Tarzan è lui, ed è l'unico. Questo è il grido, il richiamo che ha inventato proprio lui, Johnny Weissmuller. È uno dei suoni più riconoscibili al mondo e chiunque sa cosa sia. La vita di Johnny Weissmuller non è stata proprio sempre facile, perché prima di diventare una leggenda del nuoto e poi del cinema, lui ne ha passate parecchie. Era giovanissimo quando ha intrapreso la sua carriera di nuotatore. Aveva solo 12 anni, ma i primi 12 anni della sua vita sono stati molto difficili, pieni di amarezze. Lui nasce nel 1904, il 2 giugno, in quella che oggi è Timișoara, in Romania, città teatro di vicende molto aspre nel periodo della caduta di Ceausescu, ma anche quando lui nasce la cittadina è travagliata, si chiama Freidorf, e parte in quel momento dell'impero austro-ungarico, e il padre Peter è un capitano dell'esercito dell'imperatore Francesco Giuseppe, ma vuole partire perché lì i tempi sono difficili e cerca la fortuna nel nuovo mondo. Insomma, quando Peter Weissmuller e la moglie mettono piede negli Stati Uniti, Johnny ha solo 7 mesi. E poi ci si sposta da Chicago alla Pennsylvania, dove Peter ha trovato lavoro come minatore, dove il 3 settembre nasce il secondo genito, che si chiama Peter Junior. È un evento che avrà un ruolo decisivo nella storia di Johnny Weissmuller. Molti biografi, perché lui avrà decine di biografie di scritti legati alle sue imprese, definiscono questo periodo della sua vita molto brutto, perché la sua esistenza è piena di stenti, è difficile. Il padre è stato un ufficiale e adesso deve fare il minatore, cosa che non gli piace. Insomma, dopo qualche anno i quattro si trasferiscono nuovamente a Chicago. Peter apre un bar e Elizabeth, che è bravissima a cucinare, diventa cuoca in un ristorante, e gli affari però non vanno bene e Peter diventa il primo e il più assiduo cliente del suo stesso bar. Insomma, diventa un alcolista e quando torna a casa sono botte per tutti. E come ho già detto, insomma, questa è una delle note caratteristiche di almeno un terzo, se non di più, dei personaggi che noi abbiamo raccontato: padre alcolista, e violento. La madre invece ha fatto carriera, è diventata capocuoca, però non ha soldi e quindi, visto che la cosa è gratis, porta i bambini a nuotare alla Fullerton Beach nel Lincoln Park sul lago Michigan. Qui Johnny fa il suo incontro straordinario, è l'incontro con l'acqua. Non so spiegarmelo, se non dicendo che fu come essere a casa. Avevo scoperto il mio elemento. Dalla prima volta che entrai in acqua, ho sempre avuto lo stesso pensiero. Nuotare è molto più facile che camminare. Il falco e il gabbiano. Johnny Weissmuller e suo fratello Peter amano molto nuotare, ma Johnny non ama solo nuotare, è un portento, frequenta la piscina, vince tutte le gare, poi capita qualcosa, perché a volte il destino, insomma, ci mette lo zampino per fare cambiare gli eventi. Eh sì, perché succede spesso nella vita che un evento negativo genera invece una svolta positiva, come diciamo noi, un colpo d'ala. E in questo momento c'è una madre che lavora, fa molta fatica perché deve mantenere tutti, e poi quando torna a casa prende le botte da un marito che è incattivito da una vita di insuccessi, quindi i figli che vanno a scuola con i lividi negli occhi, insomma una situazione drammatica che genera una separazione. Elizabeth non ce la fa più e in più lei il lavoro ce l'ha e quindi chiede la separazione. Johnny aiuta la madre a questo punto, va a lavorare come addetto agli ascensori, come fa Torino all'Illinois Athletic Club, che è uno sport club molto prestigioso, e in questo sporting club, diciamo, c'è una piscina e lui nelle pause chiede di allenarsi e può farlo. E il caso e il destino, il caso vuole che l'allenatore di quella piscina sia il grande Bill Bachrach, che è un notissimo coach a Chicago. E Bill Bachrach vede questo bambino di 12 anni che ha una potenza incredibile, non l'ha vista in nessun altro lui questa potenza, lo tiene d'occhio, alla fine si decide a fargli fare una prova al cronometro. Ascoltate il suo racconto perché ha dell'incredibile. Teneva la testa così alta fuori dall'acqua che mi ricordava come nuotano i cani. Credo di non aver mai visto uno stile di nuoto peggiore, ma guardavo anche il mio cronometro, e il mio cronometro non mente mai. Finì la sua vasca in un tempo sotto il record di quel momento, una cosa pazzesca, e non stava nemmeno forzando. Eh sì, è qualcosa di incredibile, Johnny è velocissimo, è il più veloce di tutti, nonostante uno stile dilettantistico, privo di qualsiasi studio, lontano da ogni legge della fluidodinamica, lui nuota forte, nuota così per un motivo preciso, ha sempre nuotato in acque limacciose, fangose, quindi è abituato a tenere la testa fuori dall'acqua. E Bill Bachrach capisce subito due cose: la prima è che non può farsi scappare quel portento, e la seconda che non dovrà mai cercare di cambiare il suo stile, al massimo può dargli qualche consiglio. Così Johnny Weissmuller nel 1920 a 16 anni inizia a allenarsi con Bachrach. E il 6 agosto del 21 debutta ai campionati statunitensi, vince le 50 yard stile libero. L'anno dopo, il 9 luglio del 22, compie un'impresa impossibile. Siamo ad Alameda, in California. Lui batte il record del mondo dei 100 metri stile libero, detenuto dal campione olimpico hawaiano Duke Kahanamoku, che alle Olimpiadi di Anversa nel 20 aveva fissato il record a 1:04. Bene, Johnny Weissmuller realizza il nuovo record del mondo e abbassa il primato di più di un secondo e mezzo perché nuota in 58,6. È un risultato sensazionale. Considerate le condizioni: acqua a temperatura ambiente, vasca poco profonda, priva di corsie e con un costume intero a effetto frenante. Questo è il nuoto degli anni 20, eppure lui è il più bravo, il più determinato. Quello stesso anno a Honolulu straccia anche il primato dei 200 metri, mentre nei sei anni successivi frantumerà la bellezza di 65 record su qualunque distanza, compresi i 400 e gli 800. Ma a lui non basta essere il numero uno nelle piscine, lui vuole l'oro olimpico. È naturale che un atleta della sua portata desideri coronare quel sogno, il sogno di tutti i grandi atleti, ma per lui non sarà semplice gareggiare con i colori della sua patria, perché in realtà lui non è nato negli Stati Uniti, lui è un immigrato. The Flying Fish, il pesce volante, come viene ribattezzato Johnny Weissmuller dopo i suoi successi, sta sognando le Olimpiadi e l'occasione si presenta subito, perché nel 24 i giochi si terranno a Parigi e lui vuole andarci a tutti i costi, ma c'è un problema insormontabile. Lui è americano col cuore, ma non sui documenti. Sui documenti c'è una identità austro-ungare, che è qui che arriva prezioso il fratello Peter, quello nato in Pennsylvania. I ragazzi si assomigliano, hanno solo un anno di differenza, insomma ci vuol poco a far diventare il fratello minore maggiore e il maggiore minore. Insomma, la madre giura e spergiura che il suo figlio minore è proprio lui, Johnny Weissmuller, nato il 3 settembre del 1905 a Winberg in Pennsylvania, mentre il maggiore è Peter, nato il 2 giugno del 1904 a Timisoara. Insomma, uno scambio di persone fatto a fin di bene. Johnny Weissmuller è un bravo ragazzo, è onesto, non mente mai, questa cosa non gli va giù, ma insomma, se lui vuole andare alle Olimpiadi ha solo questo sistema e la sua vera data di nascita resterà un segreto per moltissimi anni. Nemmeno il figlio, Johnny Weissmuller Jr., autore della biografia Tarzan mio padre, ne era a conoscenza fino alla stesura del libro nel 2002. La cosa più incredibile e anche la più interessante che mi è capitata durante le mie ricerche sulla vita di mio padre è stato scoprire che lui non era cittadino americano al tempo dell'Olimpiade di Parigi. Ho fatto fatica a credere che mia nonna e mio padre abbiano potuto ordire una trama tanto complessa e soprattutto tenere la cosa così ben nascosta. Nessuno della famiglia, a parte mia nonna e mio zio, oltre a papà ovviamente, ha mai saputo niente di questo scambio. Alle Olimpiadi di Parigi, Johnny Weissmuller supera le aspettative più rosee e conquista 3 medaglie d'oro nello stile libero, 100, 400 e nella staffetta, oltre a vincere un bronzo nella pallanuoto, non so se mi spiego, cioè nel frattempo va anche a giocare a pallanuoto e arriva terzo come componente della squadra statunitense. Tornato in patria è un eroe, viene ricevuto anche dal presidente degli Stati Uniti d'America, Calvin Coolidge, diventa il mito di tutti gli sportivi dell'epoca, è il campione da battere, ha solo 20 anni e ha un grande sogno, essere il nuotatore più forte di tutti i tempi. Così non si siede sugli allori, sbaraglia record tra il 25 e il 28 e diventa veramente il più grande nuotatore al mondo. Alle Olimpiadi successive, quelle appunto del 28 che si svolgeranno a Amsterdam, non si smentisce, ancora 2 ore nei 100 metri nella staffetta, ha soltanto 24 anni, potrebbe tranquillamente continuare la sua carriera di campione, ma a sorpresa nel 29 annuncia il ritiro dall'attività agonistica. Ha 5 ori e un bronzo olimpici, 52 titoli nazionali, 67 record mondiali, non ha mai perso una gara, chiude imbattuto la sua carriera agonistica. Eppure questo non è che il primo capitolo di una leggenda straordinaria che Johnny Weissmuller è destinato a vivere e a rendere per sempre immortale. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando un uomo che è riuscito a diventare leggenda 2 volte. Prima come nuotatore, poi come attore. Intanto stiamo parlando del primo atleta che scende sotto il minuto nei 100 metri, uno che vince 5 ori olimpici, che detiene un numero impressionante di record e che si ritira imbattuto nel 29 a soli 25 anni. Ma scritta la prima leggenda, il nostro protagonista che è Johnny Weissmuller, si avvia a vivere la seconda leggenda che lo vedrà protagonista e che parte subito non appena lui dà l'annuncio del suo ritiro dall'attività agonistica. La BVD è una famosissima marca di costumi da bagno dell'epoca, lo mette sotto contratto come uomo immagine, diciamo testimonial oggi si direbbe. Deve girare il paese pubblicizzando costumi da bagno, facendo esibizioni di nuoto, firmando autografi e partecipando a programmi televisivi, tutto per $500 alla settimana, che in quei tempi sono una fortuna. E insomma, se lo merita anche, non è che sia uno che è andato in TV a far nulla, e questo è uno che ha vinto e ha vinto e ha vinto ancora. Johnny è contentissimo, in pratica non deve fare niente, deve girare l'America, lo pagano anche, però non non conosce niente di questo mondo, rischia di perdere tutto perché combina un guaio, accetta di partecipare al film Glorifying the American Girl della Paramount, che rappresenta uno show delle famosissime riviste musicali Ziegfeld Follies. In pratica non deve recitare, deve fare la bella statuina, anzi statuona, 1,90 m per 80 kg di muscoli, un viso molto bello, un sorriso accattivante, piace tantissimo alle donne. I produttori decidono di farne buon uso, lo vestono con una sola foglia di fico, questo piace moltissimo alle spettatrici del film, ma molto meno ai dirigenti della BVD, che non trovano corretto che il loro testimonial di costumi indossi qualcosa che non sia il loro costume. Per fortuna la Paramount è una grossa casa di produzione, insomma tutto viene sistemato, ma questo evento rimane nella storia come il debutto cinematografico di Johnny Weissmuller. Abbiamo accennato che lui piace molto alle donne, però nella sua biografia di donne fino a questo punto non ne sono ancora comparse. E infatti ascoltate cosa racconterà lui anni dopo. Avevo nuotato tutto il tempo per anni, non mi ero mai fermato e non avevo mai pensato alle ragazze. E questo non era affatto naturale alla mia età. Fino a che avevo fatto attività agonistica e allenamenti continui, non me ne ero reso conto. Ma ora che avevo smesso, beh, mi sentivo molto solo. Eh sì, lui si sente solo, però non vuole una semplice avventura. Lui cerca una moglie, vuole farsi una famiglia. Così, quando nel febbraio del 31 incontra Bobby Ernst, che è una giovane cantante molto carina, si innamora di lei. 2 settimane dopo i ragazzi si sposano e intanto continua la sua attività con la BVD. E mentre si trova a Hollywood per promuovere una nuova linea di costumi, la sceneggiatrice Cyril Hume lo vede per caso nuotare nella piscina di un hotel. Lei sta scrivendo un film che sarà prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer per la regia di Woody Van Dyke, basato sulle avventure di un personaggio inventato dallo scrittore Edgar Rice Burroughs, e il personaggio è un uomo scimmia, un uomo allevato dalle scimmie e che in qualche modo nell'opera letteraria di Burroughs dimostra, come dire, la parte buona e la parte cattiva che c'è inizialmente nelle persone prima di confrontarsi con la civiltà. Insomma, stiamo parlando di Tarzan e non stanno trovando l'interprete giusto. Cyril vede Johnny Weissmuller nuotare e si convince che la persona giusta sia proprio lui. Lo avvicina e gli propone di fare un provino. Johnny non è interessato, perché dovrebbe fare un provino per un film? Lui non è un attore, non sa recitare, poi un lavoro ce l'ha, è anche ben pagato, ma lei insiste, gli descrive la bella vita degli attori, gli studi di produzione, incuriosisce Johnny, che alla fine le chiede: ma mi farai conoscere Jane Harlow? Ma potrò stringere la mano a Clark Gable? E lei gli fa una promessa solenne: questo avverrà, del provino non gli interessa, è tutto contento perché conoscerà il suo idolo, appunto Clark Gable. Il giorno dopo Johnny Weissmuller si presenta agli studios dell'MGM. Ascoltate il suo racconto. Feci quel provino. Io volevo conoscere Clark Gable alla Metro-Goldwyn-Mayer, ma non mi facevano entrare. Un tipo mi disse: ci sono 75 ragazzi sul retro che aspettano di fare un provino per Tarzan. Vai lì, così riesci a entrare negli studios. Così feci il provino. Mi dissero: sai correre? Certo che so correre. Sei capace di arrampicarti su quell'albero? Certo. Sei capace di dondolarti su quella liana? Certo, risposi. Mi ero allenato spesso agli anelli, così volteggiai su quella liana. Poi sono riuscito a conoscere Clark Gable e anche Greta Garbo. E poi me ne sono andato a casa. Una settimana dopo mi chiamano e mi dicono: hai avuto la parte come Tarzan. Il regista Woody Van Dyke ha trovato il suo Tarzan, è felicissimo, propone a Johnny un contratto di 7 anni a $175 la settimana e lui rifiuta, ne guadagna 500 andando in giro indossando costumi, però Van Dyke lo vuole, sa che è il Tarzan giusto, insomma parte una trattativa e l'accordo avverrà nei giorni successivi tra la MGM e la BVD, insomma i produttori di Hollywood arriveranno a sborsare $2,000 a settimana pur di avere Johnny Weissmuller. Ma ascoltate ancora il racconto del campione perché è molto divertente. Entrai nello studio del regista, mi chiese: ma com'è il tuo nome? E dissi: Johnny Weissmuller. E lui: beh, lo dovremo cambiare. Risposi, ma di cosa stai parlando? E lui, è troppo lungo per andare su una locandina. Cos'è una locandina? Dissi. No, no, voi non lo cambiate il mio nome. Allora un tipo disse al regista, questo ragazzo è il detentore di tutti i record mondiali di nuoto. Non puoi cambiargli il nome. Il regista replicò, ma è fantastico. Teniamo il nome e aggiungiamo delle scene di nuoto nel film. Ascoltate quanto poteva essere potente allora e forse anche oggi una major come la Metro Goldwyn Mayer. Johnny Weissmuller ha tutto quello che serve per creare il personaggio di Tarzan, ha un fisico possente, è bellissimo, ma di quella bellezza selvaggia che è perfetta per quel ruolo e anche forse per le donne, insomma è atletico, sa compiere tutte le azioni dell'uomo scimmia, ha un solo difetto, è sposato. E visto che i produttori intendono creare un personaggio che è sì di fantasia, ma che nell'immaginario collettivo diventi reale, Tarzan non può essere sposato. I dirigenti sono categorici. Caro Johnny, devi disfarti di Bobby. Disfarmi, cosa vuol dire? Assassinarla, divorziare, chiede lui ironico. Poi se ne va. Non se ne parla neanche, lasciare sua moglie per fare Tarzan, ci mancherebbe. Ma Johnny Weissmuller non conosce bene due cose. Non conosce quelli con cui sta entrando in affari, perché non sa fino a dove possono spingersi, e non conosce bene neanche un certo tipo di donna. Insomma, e vengono promessi $10,000 a Bobby in cambio del divorzio. E la ragazza fa arrivare a Johnny una richiesta di divorzio e sparisce, che lo faccia per amore, diciamo, per non intralciare la carriera del marito o per avidità, e io propendo ahimè per la seconda ipotesi, poco importa. Insomma, Johnny Weissmuller è di nuovo single e quindi può entrare prepotentemente nel mondo di Hollywood come Tarzan, il re delle scimmie, e come sogno delle americane di quegli anni. Tra il 1932 e il 1942 Johnny Weissmuller interpreterà 6 film di Tarzan con la MGM, poi cambierà casa cinematografica, passa alla RKO Pictures, di proprietà di Joseph Kennedy, padre del presidente John Fitzgerald Kennedy. E con la RKO Johnny Weissmuller realizza altre 6 pellicole fino al 48, guadagnando complessivamente oltre $2 milioni per la sua interpretazione di Tarzan. Lui non è un grande attore, non gli è richiesto di recitare dialoghi troppo lunghi. Ascoltate questo spezzone tratto dal primo film Tarzan l'uomo scimmia del 32, la voce femminile che sentite è quella di Maureen O'Sullivan, la deliziosa interprete di Jane. Tarzan, what am I doing here alone with you? What are we going to do about us? What? You and I. You and I. Darling, you got that right. Tarzan, Jane, hurt me, boy, love it, Jane. Darling, that's quite a sentence. Beh, va detto che poi magari Tarzan più avanti farà anche qualche discorso un po' più lungo, il personaggio sarà approfondito, le trame lo vedranno un po' più partecipe, però niente di eccezionale. Infatti Johnny Weissmuller, a proposito della sua abilità, o meglio di non abilità, di attore, dirà così. Come può un tizio arrampicarsi sugli alberi, dire io Tarzan, tu Jane, e guadagnare milioni? Il pubblico perdona il mio modo di recitare perché sa che sono stato un atleta. Sanno che non sono un impostore. Johnny dimostra molta umiltà in questa sua affermazione. In realtà lui è semplicemente perfetto, è fatto apposta per recitare Tarzan. Il tempo gli ha dato ragione, il suo modo di essere, la sua fisicità, ma anche la sua dolcezza, e il suo rapporto con Jane, le sue avventure e il rapporto con gli animali della foresta lo fanno amare da tutti, dalle donne, dagli uomini, dai bambini. È il personaggio perfetto creato dalla fervida immaginazione di Edgar Rice Burroughs, che viene interpretato magistralmente dal campione di nuoto, tanto che il nipote dell'autore, Denton Burroughs, dichiarerà questo. Il primo Tarzan con il quale sono venuto in contatto non è stato quello di mio nonno, perché prima di imparare a leggere avevo già visto i film. Per me Tarzan era Johnny Weissmuller. Mi resi conto solo molti anni dopo che in realtà lui era un attore fresco delle vittorie olimpiche, irradiava gioventù, forza, potenza, bellezza. Lui era Tarzan e il suo urlo, il richiamo di Tarzan, credo proprio che sia uno dei suoni più riconoscibili sulla faccia della Terra. Difatti è un marchio registrato di proprietà della Edgar Rice Barrow Corporation, la compagnia fondata da mio nonno che detiene i diritti di tutti i suoi scritti. Un richiamo che tra l'altro si diceva fosse stato realizzato in studio dalla MGM, ma che invece era proprio di Johnny Weissmuller, che in più di un'occasione, anche in tarda età, è stato in grado di replicare durante le varie interviste televisive. Intanto bisogna sottolineare che il veto a sposarsi dura poco, per fortuna, e così Johnny Weissmuller si rifarà, perché si sposerà altre 4 volte e avrà 3 figli. Terminata l'avventura con Tarzan, lui lascia i succinti panni dell'uomo scimmia, però non la giungla, è abbastanza legato a quel mondo ovviamente, quindi interpreterà Jungle Jim, il Jim della giungla, un personaggio di una striscia fumetti, una guida con la passione per l'investigazione. E poi altri 16 film tra il 48 e il 55, tutti della serie Jungle Jim. Poi abbandona la giungla, cioè il mondo dello spettacolo, si trasferisce a Chicago dove apre una piscina, diventa presidente della, anzi la fonda, e poi diventa presidente della International Swimming Hall of Fame, e poi va a vivere a Las Vegas dove si occupa delle relazioni pubbliche dell'MGM Grand Hotel. Nel 74, in seguito a una frattura a una gamba, scopre che nonostante la sua immensa forza e il suo cuore è in cattive condizioni. Insieme all'ultima moglie va ad Acapulco in Messico, dove aveva girato l'ultimo film di Tarzan, dove muore 10 anni dopo, il 20 gennaio del 1984, di edema polmonare a quasi 80 anti. Amato dal pubblico di tutte le età, amato da diverse generazioni per la sua forza, per la sua positività, è un simbolo di speranza, di un mondo semplice dove il bene e il male sono ben distinti e chiari, dove c'è sempre la possibilità di sopravvivere e dove il buono vince. Ci sono storie a volte sconosciute o forse un po' dimenticate di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno. Nel nostro caso ne hanno lasciati due, prima nello sport e poi nel cinema. Il nostro protagonista ha avuto cadute e risalite, ma soprattutto ha avuto risalite tra una liana e l'altra. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure scrivete al nostro sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social, Facebook, Twitter, nei nostri social, insomma se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.